Veg è la storia di un dinosauro vegetariano, Reginaldo, e delle difficoltà per la sua decisione di mangiare verdure e non carne, come tutti gli altri tirannosauri. Ma è anche una storia che insegna a comprendere ed accettare la diversità e le differenze di fronte a una massa che impone scelte globali e che esclude chi osa contrastarle. È un libro che racconta di discriminazione, di esclusione dal branco e di vegefobia. Non a caso il nome T-Veg è una sorta di nomignolo dispregiativo con cui i T-Rex chiamano Reginaldo, ma che sul finale offre al piccolo lettore la speranza di un mondo fatto di accoglienza e integrazione. Perché, come scrive l'autrice nella conclusione del libro, la cosa più importante è essere felici di ciò che siamo. E Reginaldo, alla fine, potrà essere quello che è. Un tirannosauro come tanti altri, con un ruggito feroce e potente, denti aguzzi, passi pesanti e una passione incredibile per i frullati di frutta, la torta di carote e di spinaci. È talmente buona, dovreste provarla. Tu dovresti mangiare carne, carne, carne. Non vincerai mai le tirannosauro olimpiadi. E perché no? Corro veloce come te. Non esiste al mondo un T-Rex vegetariano. I T-Rex hanno bisogno di carne. Serve loro per essere forti. Perciò, se mangi frutta e verdura, sbagli proprio tutto. Non sei un vero T-Rex. Sei un T-Veg. Così il povero Reginaldo, deriso e umiliato, decide di andarsene. Addio! Me ne vado da casa e non tornerò mai più. Troverò dei nuovi amici che mi capiscano. Forse scoprirò di essere erbivoro. Mi comporterò da vegetariano. Scommetto che sarà divertente. E lungo la strada incontra un gruppo di dinosauri erbivori che pascolano poco lontano. Che fortuna! Farò amicizia con loro. Ma appena si mette a correre per raggiungerli, quelli scappano terrorizzati. Intanto a casa gli altri T-Rex iniziano a sentire la mancanza del loro compagno vegetariano e decidono di andare a cercarlo per riportarlo a casa. Durante il viaggio però improvvisamente sentono un boato. È la cima di un dirupo che si sta staccando. E un pezzo sta per crollare sopra di loro quando all'improvviso arriva Reginaldo in loro soccorso e riesce a bloccare il masso pesantissimo, salvando i suoi amici. Urrà per Reginaldo il T-Veg, sei fortissimo! Ma certo, è tutto merito della frutta e della verdura. Le carote fanno bene alla mia vista, le banane fanno felici i miei muscoli, i piselli e gli spinaci mi danno tutta la forza che mi serve. Perciò, se mangio frutta e verdura, non sono certo più debole di voi. Certo che non lo sei, tu sei fortissimo e sei anche unico. Ma ora, per piacere, torna a casa con noi, torna nel tuo branco. D'accordo, ma non dovrete più ridere di ciò che mangio. Non lo faremo mai più e, se tu ce lo permetti, vorremmo fare pace con te. Rotola giù per la preistoria dove buchi e rotta la vecchia e vien su. Rotola giù per la preistoria, perderai la calma, sembrerai guatto. Schiocca le dita, sbatti i piedi, sentire la giungla scorrere dentro te. Rotola giù per la preistoria e canta insieme a me. T-Veg, la storia di un dinosauro vegetariano, scritto da Smriti Prasadam Halls, per bambini dai 3 anni in su. Electa Kids, costo 14,90 euro.